Benvenuti su Rigonia. Good morning. It's December 12, 2022, and it's a Monday. Here in LA, it's raining, cloudy, very still right now. 45 degrees Fahrenheit. It's around 7 Celsius. Today, no music. This afternoon, it'll be going up to only 55 degrees Fahrenheit. That's around 13 Celsius. And this rain will continue till maybe late morning and then begin to taper off. It'll be very cloudy. The clouds will thin. And there is a chance for blue skies and golden sunshine all along the last of the way. Everyone, have a great day. Rigonia. Microphone check 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. Siamo in onda, 20 gennaio 2025, ore 20:34, Rigonia su Radio Antidoto. Io sono sempre Francesco e questo è il mio cellulare che poggio in un posto dove puntualmente cade. Io faccio una strana vita. Per cominciare ho con me qui un bicchierino di Porto e e in realtà lo sorseggio nel frattempo che conduco questa trasmissione, in attesa, in realtà in attesa d'altro, e più specificamente in attesa del momento in cui mi metterò a letto in compagnia dei miei pensieri. C'è un'app che ho scaricato qualche anno fa su segnalazione di una persona che si chiama The Pattern. È un'app molto famosa, è un'app di astrologia sofisticata che prende la tua disposizione degli astri e la trasforma in un grande racconto spirituale. A me, a dirla tutta, The Pattern ha abbastanza fottuto il cervello negli anni, perché in buona sostanza descrive, ed è una descrizione che vado trovando in giro da una vita sostanzialmente, un'esistenza sostanzialmente tormentata. Di questa persona intelligente, curiosa, per la verità anche carismatica, che però è sempre guidata da questa irrefrenabile inquietudine e difficoltà nelle relazioni. Ora io ho iniziato un percorso per disintossicarmi da questo tipo di contenuti, e in particolare da The Pattern, perché voglio fare un po' di resistenza a questa narrazione. E non perché non sia vero, perché di fatto probabilmente è così, ed è probabilmente il modo in cui mi percepiscono tutti. Però il punto è che c'è molto altro nella mia esistenza, e ho come l'impressione che per inseguire questa definizione di me stesso, questo chiarimento definitivo sulla mia persona, quello che dovrei essere o quello che non dovrei essere, ho un po' perso di vista le cose che invece mi fanno gioia e mi danno soddisfazione. Però sicuramente è vero che c'è una ricerca di me stesso di fondo, che è iniziata sostanzialmente alla mia nascita e che finirà sostanzialmente un poco prima della mia morte. Dico un poco prima della mia morte perché così sembrerebbe dire l'astrologia, e siccome The Pattern è famosa al mondo per essere spaventosamente esatta, a questo punto non voglio più dargli torto. Però in qualche modo non la voglio manco più stare a sentire. Se capiterà poco prima della mia morte, tanto meglio. Fatto sta che The Pattern descrive appunto la mia vita come un continuo rincorrersi di momenti di grande fatica e di stravolgimenti, di colpi di scena e di rivolgimenti. Che alla lunga, se posso essere sincero, rompe anche un po' i coglioni. Diciamo che il punto fondamentale di questa mia introduzione è che c'è qualcosa nel periodo attuale che ha a che fare con la liberazione, e come avete sentito, le parole con cui mi accompagnerò in questa diretta sono le parole di David Lynch, che la cui morte è stato un grosso campanello, almeno per me. Rispetto a quanto sostiene l'astrologia, The Pattern e tutto il resto, in effetti io ricordo chiaramente il momento, il modo in cui sono entrato in onda su Radio Antidoto, ed è un po', come dire, il riflesso di quello che ho vissuto negli ultimi anni. Quando Fred Bonelli mi ha contattato per fare la radio, in realtà non mi ricordo più, me l'ha consigliato Fabio e io ho contattato Fred Bonelli, e Fred Bonelli in realtà in quel periodo, per ragioni che io non so, non era particolarmente, come si dice, tempestivo nel rispondere, allora io sulle prime ho reagito male. Ho pensato, vabbè, a questi qua sono gli ennesimi a cui non frega niente, vaffanculo, io non ci voglio andare in radio con gente così. Poi sono andato in onda e la storia ci insegna che io sono ancora qua e con Fred ho un fantastico rapporto e sono molto grato di averlo conosciuto. E però, quando sono arrivato al 100° episodio di Rigonia, quando la mia mente era in un momento creativo estremamente fervido ed effervescente, c'è stata una battuta d'arresto molto forte. E io pensavo, come dire, e io ho vissuto il tracollo in modo. E ho passato molto tempo a ricostruire molte parti di me in seguito a questa sensazione di sconfitta. Quello che mi ritrovo a pensare, quello di cui mi rendo conto oggi, dopo tutto quello che è successo, dalla mia prima messa in onda Radio Antidoto a oggi, è che probabilmente quando sono entrato in Radio Antidoto e quando ho visto quante cose belle, interessanti e quanto bene potessi fare nella radio e in generale in un gruppo di persone che si dedicano assieme a un progetto creativo, io in verità avevo soltanto grattato la superficie di questo viaggio alla scoperta di me stesso che fino a quel momento probabilmente avevo dato un po' per scontato. E direi che il resto del racconto seguirà dopo un breve intermezzo musicale. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. We'll be right back. have a very good heart and you are interested in other human beings. You make people feel at ease and you're very intelligent and you have a very good heart. Rigonia, 2046, 20 gennaio 2025. Dico queste cose perché nei secondi in cui pronuncio queste parole, e anche queste, sto recuperando le idee che avevo in testa fino a un secondo fa. Sono qui con voi, in diretta, sorseggio del porto, e proseguo nel mio racconto. La ragione per cui sono voluto venire in onda oggi, prima di tutto è perché oggi sono stato male questo weekend, ho avuto un po' di influenza il sabato e sono stato allettato tutta la domenica e non sono andato ad allenarmi come faccio tutti i lunedì, però avrei potuto fare altro, infatti non vedo l'ora di finire questa puntata per sdraiarmi a letto con i miei pensieri, ma anche questa cosa dello sdraiarmi a letto con i miei pensieri, perché è così importante, perché oggi tutto ad un tratto nel pomeriggio ho iniziato a percepire l'assenza di rumore ed è molto interessante quando fai queste esperienze, perché tendenzialmente quando c'è una situazione appunto di rumore non te ne rendi conto fin quando non smette. Per esempio, per due o tre anni ho vissuto in una via di Torino che si chiama Corso Palermo. Non è tanto lontana da dove abito adesso e non era tanto lontana da dove trasmettevo prima, dal mio soppalco di via Bra. E era una via dove passavano molto spesso, per tutto il giorno, quindi anche di notte, ambulanze e polizia. Chiaramente all'inizio il rumore era molto percepibile e ci dava parecchio fastidio, ma a lungo andare non ci abbiamo più fatto caso, perché era l'unico appartamento che avevo trovato in una lunga ricerca molto faticosa e perché sostanzialmente a lungo andare te lo fai andare bene oppure basta. Quando siamo entrati in via Bra, appunto, dopo tre anni di abitazione in Corso Palermo, ci siamo resi conto che in via Bra c'era uno straordinario silenzio. E la cosa che è successa questo marzo, dopo aver lasciato via Bra per via Andezeno, e ci siamo resi conto che il silenzio può avere ancora un'altra qualità. E devo dire che il silenzio di via Andezeno rispetto a quello di via Bra talvolta mi spaventa, perché è un silenzio veramente assoluto. Soprattutto nei primi mesi lo definivo come un silenzio di premorte. Ancora adesso utilizzo questa definizione per rendere l'idea di quanto assoluto in certi momenti può essere il silenzio in questo quartiere. Ebbene, io ho percepito la fine di un rumore nella mia testa, come se a un certo punto fossi in compagnia non di tutti i miei pensieri, ma solo dei pensieri giusti. E non per forza dei pensieri piacevoli, ma dei pensieri corretti nel momento in cui li pensavo. La scorsa puntata, adesso non so più quanto tempo è passato, ho parlato delle parole, dell'importanza di trovare le parole giuste, dell'importanza di ragionare sulle parole, essere selettivi sulle parole, cercare di parlare di parole di verità. Questo perché sto entrando in una fase della vita in cui sento che è molto importante il concetto di consapevolezza. Consapevolezza di chi sei, consapevolezza di che cosa fai e consapevolezza di cosa, di come quello che sei e cosa fai impatta sulla realtà. E a questo riguardo il fatto di aver percepito questa assenza di rumore mi ha dato un grande sollievo. Mi ha dato la voglia di nuovo di stare in compagnia dei miei pensieri e mi ha fatto ricordare allo stesso tempo quanto mi piacesse stare in compagnia dei miei pensieri. Molto tempo fa, i miei psicanalisti, tanto diciamo il mio psicanalista, quello che mi segue tuttora, tanto l'osservatrice dei gruppi di psicodramma con cui ho fatto qualche seduto assieme, avevano sottolineato l'importanza, quanto fosse rilevante il fatto che nell'andare in giro si indossassero più o meno delle cuffie con la musica o degli occhiali da sole. E era stato fatto un ragionamento di questo genere anche rispetto al fumo. Cioè sono tutte strategie per mascherarsi all'esterno, per proteggersi dall'esterno, per creare una parete tra se stessi e l'esterno. Quindi il consiglio era non indossare cuffiette quando passeggi per strada, non indossare occhiali da sole, ma lascia che la realtà venga a te. Lascia che tu ti abitui al rumore della realtà, lascia che tu riesca a viverlo e a scremarlo in modo di capirlo. E allo stesso tempo il fumo mi era stato descritto come una maniera per in qualche maniera addormentare le emozioni difficili, appunto annegarle nel fumo, nasconderle dietro a una coltre di fumo. E questa cosa del rumore mi ha fatto pensare al fatto che io ho ripreso a fumare da un paio d'anni, moltissimo, troppo, e che è una delle principali ragioni della mia perdita di peso. E mi ha fatto anche pensare questo, che negli anni in cui non fumavo, una delle cose più importanti che ero riuscito a fare era quella di stare in compagnia dei miei pensieri senza avere bisogno di annegare le emozioni e le reazioni che mi davano i miei pensieri con l'ausilio del fumo. E per un attimo ho avuto un pensiero, ho pensato, chissà, magari posso rinunciare di nuovo al fumo, perché posso tornare a stare in compagnia dei miei pensieri. Il problema principale adesso è che quando ho smesso di fumare ho messo su 10 kg e non ne ho più voglia. So you want to take over for Letterman? You want to host Late Show on CBS? Yeah, that's... Well, here's the thing with that, champ. That's short for champion. If you want to be a talk show host, it's better if you're funny. Now, there have been some guys who are not funny. Tom Snyder, David Susskind, Ted Koppel. But funny's better. Now, have you ever had any experience with being funny? Yeah, I'm a comedian. You're a comedian. Well, I've known you for a week and you haven't made me laugh once. I had no idea you were a comedian. I thought you were a newsman. Oh, I'm not a newsman. I'm a comedian. Jesus. Well, all right, let's see it. See what? See the funny. Make me laugh. Go. Go? Go. Funny. 3, 2, 1. I'm go. I'm not that kind of funny. What kind of funny? The kind where you just say go and I'm funny. All right, I think you better leave my office. Jack, Mr. Dahl, I look, there's different kinds of funny, right? There's different kinds of performers. I'm not that kind of performer. Let me tell you what kind of what you are. You're whatever you have to be to make people laugh. Anytime, anywhere, anyone. You turn it on a dime. You get that belly moving, son, or you're out. Now tell the truth. You're just scared. Like a rookie. You're like some kid at a talent show with a number pinned to your shirt. You got nothing, or you would have shown me now. So get out. Thank you. Have a nice day. Fine. Lick, I can't give up on this. I don't, this is either a door or a wall for me, and it's either the beginning or the end. I don't, I, please. Okay then, let's see the funny. 3, 2, 1, go, funny. This is it, bud. You want me to start at 1 and go up? 1, 2, 3, funny. Okay, last chance and then we're really done. Done and done. Let's go, kid. You want the big gig? Let's see it. Make me laugh at the count of 3. 1, 2. You know what your problem is? You're just a pencil penis parade. Ooh, I'm... You just bought yourself another week. Go home and get some rest. Blah. lot of people say, well, you know, suffering is good for art. Look at Van Gogh, they say. And I say, let's take a look at Van Gogh. Van Gogh didn't go out painting because he hated it. The only time he was happy, probably, was when he was painting. He painted because he loved to paint. And the rest of his life was pretty miserable. He didn't sell anything. He was broke. A lot of times he's probably really hungry. Negativity is the enemy of creativity. It's common sense. If someone is depressed, they say they don't even feel like getting out of bed, let alone working. If you're sad or if you're filled with bitter anger, that occupies the mind. Maybe you do angry paintings. So what? You could do angry paintings, but be happy in the doing. Ciao. Ho sbagliato l'ingresso e sono andato in crash da solo. Stiamo ascoltando la voce di David Lynch, che è passato da qualche giorno ed è stato uno dei principali stimoli ai pensieri che mi hanno condotto a questa diretta. Anche se uno degli elementi di motivazione che mi hanno condotto a questa diretta è un articolo del Foglio che mi è apparso sulla mia selezione di notizie che l'algoritmo decide per me, per cui sa che io il Foglio lo leggo perché mi diverte, perché è bastian contrario, e il titolo di questo articolo è La guerra che non vinciamo più. E il sottotitolo in realtà è ancora più interessante, perché gli occidentali hanno rimosso la sconfitta e la resa dell'avversario dal loro immaginario. In realtà ne stavo leggendo un pezzettino mentre aspettavo la fine di Play the Funky Music. Pensate, leggo il Foglio mentre gira Play the Funky Music, dove sostanzialmente il Foglio dice non si vincono più le guerre perché vogliamo fare geopolitica invece di uccidere i nostri nemici. Se ho capito la tesi dalle prime righe dell'articolo, vedete voi come porvi rispetto a questo ragionamento. Io invece stavo ragionando su come continuare il mio racconto, perché anche se è vero che gran parte delle mie puntate sono uno schema libero, dove io mi concedo l'utilizzo di musica e di frammenti audio per intervallare le mie altrimenti noiosissime chiacchiere, hanno comunque una costruzione, quindi io ho un finale per questa puntata, ma mi sto impappinando sullo svolgimento, più che altro perché adesso dovrei parlare di una cosa di cui ho parlato già tantissimo negli ultimi mesi, ma che è davvero tanto importante, ed è tanto più importante quanto più cammino questa strada e la capisco, e non capisco se è una cosa che mi succede adesso perché non ho fatto la pratica che dovevo fare prima da giovane, o se semplicemente a questo punto della mia età, a me persona, Francesco Rigoni, è toccato in sorte di fare questa esperienza, ed è l'esperienza della convivenza con il dolore, che poi è un'esperienza strana perché io sono sempre stato una persona, come dire, afflitta da pensieri negativi che non mi hanno aiutato con la mia arte, come giustamente mi ha fatto notare David Lynch nell'ultimo spezzone. Però è anche vero che li ho sempre considerato questo aspetto di me stesso come qualcosa legato agli episodi, legato alle situazioni che mi sono trovato a vivere, e che altrimenti io sostanzialmente questi pensieri negativi, questa forma di afflizione non l'avrei mai provata, e anche come forma di resistenza a un'etichetta che mi è stata attaccata addosso quando ero molto giovane di depresso, che naturalmente non mi ha mai fatto piacere ricevere, perché se a 15 anni cominciano a darti del depresso e vanno avanti fino ai 30, tu dopo un po', come dire, ti stufi di giocare questa parte, perché tutto sommato nella vita ho anche fatto cose, sono stato in giro, ho conosciuto persone, ho fatto spettacoli teatrali, ho scritto canzoni, inciso dischi, fatte puntate radiofoniche, eccetera eccetera eccetera eccetera. Mm. Detto questo, però, il fatto di aver voluto negare questa parte di dolore, probabilmente, per quanto comprensibile, e come dire, come io posso empatizzare con me stesso del passato, che ha cercato di rigirare la frittata in modo tale da non sentirsi l'uomo più stronzo del mondo. Però è anche vero che in questo modo, ed è questo quello che non avevo capito, questo quello che non potevo sapere all'epoca, e per qualche ragione che ovviamente non sarà mai del tutto spiegabile, capisco solo ora, il punto è che se non ci fosse stato questo dolore di mezzo, io non avrei fatto nulla di quello che ho fatto, tutte le cose che ho elencato prima e ancora altre, tra cui il matrimonio, non mi sarebbero state mai possibili. E quando prendo in considerazione l'idea di smettere di fumare, perché è possibile, è fattibile finalmente che io possa vivere bene la presenza dei miei pensieri più negativi, dei pensieri più dolorosi, mentre vivo la mia vita di tutti i giorni, è perché in fondo sto avvicinandomi, sto realizzando che quei pensieri, quella parte di me, è una parte fondamentale che mi permette di andare avanti, che mi permette di esistere. Non è semplicemente una cosa che mi ha condizionata e se non ci fosse stata quella chissà cosa avrei potuto fare. No, è quella parte senza la quale io non avrei fatto esattamente niente. E quindi per certi versi, anzi per molti versi, per quasi tutti i versi, vale più la pena coltivare quella, coltivare la compagnia di quella parte di sé, che non la compagnia di un sacco di altre parti che sono lì per negare la vita, per negare quella parte di vita che poi è la parte che unisce le persone, il bisogno, le domande, la ricerca, lo smarrimento, la paura, l'accudimento, tutte quelle cose che ci fanno sentire deboli e vulnerabili di fronte agli altri. Anche se nella scorsa puntata ho parlato di confini, quindi in verità io parlo della compagnia del mio dolore, ma la mia compagnia, la compagnia del mio dolore è importante per me, per l'esistenza quotidiana di me stesso medesimo con me stesso, che se voglio pensare a una cosa triste che mi mette in difficoltà dalle 10.57 alle 11.04, quindi quei 7 minuti, beh, bisogna trovare lo spazio giusto e il giusto grado di serenità. E poi si può fare, si può entrare in quello spazio, si può aprire quella porta e starci dentro per tutto il tempo che serve, cioè 7 minuti in questo caso. Era un esempio, adesso magari ce ne vogliono 40. E magari in quei 40 minuti comunque stai lavorando, stai facendo la spesa, stai guidando, non importa. Il punto è che le sto beccando tutte. No, stavolta no. Comunque la cosa importante è gradire la loro compagnia, è gradire la compagnia di questi pensieri, gradire la compagnia di questi stimoli che sono la forza che ti scuote le spalle e ti dice: oh, ma ti rendi conto che c'è ancora questo e questo e questo, e devi fare questo e devi crescere in questa maniera, ma quante opportunità ti sta dando la vita e tu sei qua fermo, immobile. Oh, ma ti svegli. Questo poi di fatto è quello che arriva in fondo al viaggio. Quello che arriva in fondo al viaggio è una chiamata all'esistere, è una chiamata a rispondere. Per cui, per rispondere anche a David Lynch, che mai mi permetterei di farlo nella vita, ma ormai è morto, quindi se può dire di tutto, abbiamo fatto di tutto i morti, vedi Gaber. No, scherzi a parte, se posso dire una cosa che riguarda la mia esperienza rispetto a quello che ha appena detto David Lynch, che è sacrosanto ed è verissimo, spesso e volentieri se tu sei depresso non puoi fare arte, e spesso e volentieri l'arte è la cosa che ti rende più felice nella vita, però è anche vero che può anche darsi che quella tristezza e quella depressione ti stiano dicendo: guarda che in questo momento non ti devi occupare dell'arte, ti devi occupare di queste cose qui, così trovi la felicità poi per andare a fare l'arte. O almeno io così la sto cominciando a vedere. Poi nel caso di Van Gogh magari il dolore era troppo e quindi sai che c'è, a sto punto dipingo i quadri e basta. They say negativity is just like darkness. And you say, what is darkness? And you look at it and it's nothing. It's just the absence of something. You can't go down to the store and buy a dark bulb, turn it on and the room gets dark. Darkness is the absence of light. You ramp up this all positive and automatically negativity will go, just like darkness goes in sunlight or with an incandescent light. Automatically, without trying. Coffee in my favorite cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her. Oh, hallelujah. Don't you know? Stanotte, oggi pomeriggio, ho fatto un sogno. Oggi pomeriggio ho dormito perché, siccome, come dicevo, ieri sera, sabato sera e tutta ieri sono stato poco bene, ho lavorato da casa. E oggi pomeriggio, raggiunto l'orario di lavoro, sono andato a farmi una dormita. Una bella dormita. Profonda, però anche agitata. E ho fatto un sogno molto... molto forte. Sognavo che guidavo in strade di città, ma guidavo male, tagliavo le strade alle persone, sbagliavo le svolte, facevo le rasette ai muri, le rasette alle altre auto, e lo facevo perché non me ne importava niente, ero preso da altre cose, anche se non tanto da pensieri particolari, ma da umori, da un umore che non aveva voglia di scendere ai compromessi del codice della strada, per cui guidavo male, fino a che a un certo punto è notte, e in questo punto del sogno si fa notte, sono in una tangenziale, sto correndo molto forte e lungo un rettilineo decido di sterzare. Quello che succede è che mi rendo conto che che con questa sterzata la macchina inizia a fare un testacoda esagerato, un testacoda lunghissimo, un testacoda folle. E io capisco che stavolta l'ho fatta veramente grossa, capisco che stavolta sono stato scemo per davvero, e quindi mi accuccio per proteggermi dall'urto inevitabile che ci sarà e aspetto. Solo che non succede niente, cioè quando riapro gli occhi la macchina è ferma, ho finito di girare e non c'è nessuno, su questa strada non c'è nessuno. Quindi esco dalla tangenziale e nel frattempo si è fatto giorno e finisco in una strada di città molto trafficata e guido di nuovo male, però questa volta non guido male per colpa mia, o almeno io adesso cerco di guidare bene. Però il problema è che ho tante macchine da ogni parte che mi arrivano addosso, anche loro guidano male, quindi le devo aggirare, salgo sopra certe macchine, ce n'è una piccolina che non si capisce che perché riesco a salirci proprio sopra, vado contromano, taglio la strada alla gente e mi sveglio così, con questa sensazione di arrotolamento, tant'è che credo fossi anche arrotolato nelle coperte quando mi sveglio, di questa guida fatta male e di questo strano desiderio di pericolo. About 18 million Americans meditate, including some very bold-faced names. I started meditation on July 1st, 1973, on a sunny Saturday morning at 11 o'clock. One of them is director David Lynch. You remember not just the date, you remember what the day was like. I remember it as if it was yesterday, and it was so beautiful. I've been meditating twice a day for over 41 years and never missed a meditation. It might come as a surprise to learn that Lynch, the director of such dark movies as Blue Velvet and Mulholland Drive, calls himself a, quote, bliss ninny. He practices transcendental meditation, also known as TM. So people see things like stress, traumatic stress, tension, anxieties, sorrow, depression, hate, anger, and fear start to lift away. So it's like pure gold coming in from within and garbage going out. For Lynch and its adherents, TM and its repetition of a personalized mantra, "You will unfold your full potential," can help free the mind from what he calls the rubber clown suit of negativity. It's suffocating, it stinks, it's heavy, and you start meditating with transcendental meditation from a legitimate teacher, and that clown suit will start dissolving, and you'll feel so good. And that's more than just talk. In 2005, he began the David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace. One of its goals? To teach students, like the ones at this school in Los Angeles, how to meditate. Like, sometimes in the morning, I don't want to come to school. You don't want to come to school? I don't. That's the way I felt. Take the meditation. It makes me want to come to school. Did anybody here, when you first heard about meditation, think, okay, that sounds kind of weird? I did, honestly. Yeah. Betsy, Marie, you both did? Yeah. So did I. Anna, you did too? I thought it was like, you know, when you cross your legs and you hold your hands. I thought we would have to do that. Twice a day for 15 minutes, these students meditate. After that, it just helps me keep my day going. It just, that's everything that's bad, like, go away. And I just think of the positive things. It makes me become like more, I don't know, like, become more happy within myself. And like, I like become, I guess, more patient with others. When I'm in a better mood, my family's in a better mood. I don't argue as much with my sister. But when I get home after I meditate, like, I'm just in a good mood. I feel better about the day. You know, nothing bugs me. Principal Jennifer Garcia says her school, like 43 others that have adopted the program, has changed for the better. Kids are calm and they're not taking stuff out on each other. And they're really engaged in wanting to be helpful with each other. It's a different place. Rigoni-a. Questo audio era partito molto male, ma devo dire che è finito molto bene. Questa è l'ultima parte della puntata dove so esattamente quello che devo dire. David Lynch non è stato un mio maestro, però è stato un maestro per un sacco di miei amici molto molto cari. Io non ho mai visto Eraserhead, non ho finito di vedere la famosa, tanto tanto acclamata terza stagione di Twin Peaks, non ho visto Velluto Blu, non li ho visti per pigrizia, perché non è stato mai il momento di vederli. Eraserhead personalmente non l'ho mai visto perché avevo paura di vederlo da solo, questa è la verità. Però quando è morto David Lynch, e questo l'ho detto a un po' di persone, ho percepito una scossa. Mi sono detto, è morto Benvenu, e lui sì che per me era un maestro. È morto Lynch, che è stato un maestro per tanti e comunque è stato un regista importante anche per me. Chi è che la vita mi deve portare via prima che io decida di essere maestro? Qualunque sia il mio campo di maestria. Se il mio campo di maestria è restare solo con me stesso ed essere in grado di partecipare delle mie emozioni più dolorose con calma e saper accogliere le emozioni forti che effettivamente vivo durante la giornata, tutte le sollecitazioni, tutti gli input che impattano la mia sensibilità, allora ok, posso essere questo e poi posso raccontarlo e magari può essere d'aiuto agli altri, ecco. Detto questo, c'è una cosa appunto che ho detto inizio puntata, cioè che quando sono andato in onda su Radio Antidoto la prima volta, ero una persona che aveva un gran bisogno di comunicare e non trovava più un canale, e per un po' è stato un mezzo di sfogo. Dopodiché è stato un mezzo di consapevolezza e anche di presa di potere delle cose che sapevo fare con la radio. E quando c'è stata la crisi di ispirazione, appunto, ho pensato che in qualche modo le mie idee su me stesso erano sbagliate. Ed era vero, era vero, le idee su me stesso erano sbagliate. Ma non erano sbagliate come pensavo io. Pensavo che in realtà io fossi solo fuffa rispetto ad altre persone che andavano in onda, ad altre persone che scrivevano, ad altre persone che facevano altre cose. In realtà era proprio il contrario, cioè sono molto più di quello che ho fatto finora su Radio Antidoto e di quello che ho fatto finora nella vita. Sono molto di più. E adesso la vita mi ha preso a bastonate e mi ha tolto degli artisti che amavo e mi ha fatto vedere che anche altre persone che stimo enormemente vivono dei periodi difficili e io mi specchio in loro e vedo gli eventi. E, beh, oggi si è insediato Trump, voglio dire, di che cazzo stiamo parlando? Ma il discorso è, non posso più aspettare argomenti che mi a favore, come dire, del mio valore assoluto. Cioè, oggi, o comunque un oggi che, perdonatemi, sarà un po' esteso perché non ci riuscirò in 24 ore, però adesso è il momento in cui si evolve nei maestri. Io personalmente ho 40 anni, 41, vado per i 42, e non consumo più arte alla ricerca di idee o, come dire, per copiare. Al massimo consumo delle cose su cui inciampo per caso e che se aprono i miei orizzonti continuo a consumare, altrimenti lascio per strada. Cioè sono diventato molto selettivo e anche la mia curiosità è diventata molto ristretta. Cioè mi occupo di poche cose, la mia testa è impegnata in poche cose perché ormai ho un focus che in qualche maniera ha escluso gran parte dei discorsi, perché quei discorsi non sono più interessanti, non sono più importanti. E ormai quindi la tavola è apparecchiata, c'è tutto, cioè questo studio virtuale, questo tavolo del mago virtuale è già addobbato, ci sono tutti gli strumenti, ci sono tutte le cose che mi servono. per fare quello che probabilmente era scritto e che forse le app come The Pattern dicono e non dicono. Cioè, io non lo so cosa cacchio vogliono da me queste app dell'astrologia, che mi devono rompere i coglioni, che io sono un depresso e che nessuno mi capisce. Però sicuramente so, e adesso lo so con un grado di certezza molto alto, che mi sono dedicato a delle cose con passione e soprattutto ad arricchire me stesso da un punto di vista culturale, spirituale, mentale, ma anche emozionale. Cioè, ho cercato di prendere dalla vita tutto quello che mi poteva dare, perché sentivo che c'era sempre un qualcosa di più, perché sentivo che c'era sempre un valore, c'era sempre una lezione, c'era sempre una riflessione, c'era sempre un qualcosa che mi poteva aprire orizzonti, spalancare porte, mostrare mondi. E adesso in qualche maniera probabilmente quel bisogno di cercare nuovi mondi si è fatto un pochettino meno forte, però sicuramente nel mondo in cui mi trovo io, nella forma che deve essere, non posso più aspettare, non posso più farmi bello della musica di Benvenue o dei film di Lynch. Adesso, se voglio qualcosa di bello, di profondo, di importante, qualcosa che spalanchi la mia mente, e chi lo sa, magari spalanchi anche la mente degli altri, chi lo sa, magari apra il mondo anche agli altri, devo diventare io il maestro, e come me altre persone che sono attorno a me e che io reputo pronte. Siamo una generazione che ha aspettato tanto tempo, siamo diventati anche un po' vecchi, ma adesso siamo pronti. E d'altronde, come dire, la vita, l'universo, la storia, Dio, decidete voi che cazzo di nome abbia sta roba, non ha più voglia di aspettare. Quindi è morto Benvenue, è morto Lynch, e di maestri non ce ne sono più tanti. Quindi prima di dover piangere l'ultimo che è rimasto sulla faccia della terra, sarà meglio che qualcuno di noi impari a diventarlo. E con questo chiudo. Un'ultima canzone e una buona serata a tutti da Rigonia. Ciao. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Whoop! Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Whoop! Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoop. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, work, Sinora, work your body line. Yeah. Work, work, work, Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Whoa! Sonora. Shake your body line. Work, work, work, Sonora. Work it all the time. Dance, dance, dance, Sonora. Dance it all the time. Work, work, work, Sonora. Work it all the time. Sonora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Oh. Shake, shake, shake, Sonora. Shake your body line. Shake, shake, shake, Sonora. Shake it all the time. Work, work, work, Sonora. Arrivederci su Rigonia.